notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cresce lievemente più delle attese il prodotto interno lordo nel primo trimestre, più 0,3%, è il miglior risultato dal 2011, ma su base annua la variazione nulla, attesa per le raccomandazioni di Bruxelles all'Italia. Piano europeo per l'accoglienza ai profughi, all'Italia una quota dell'11,8% dei richiedenti asilo, secondo il Guardian in Libia si starebbe studiando anche un intervento di terra. No alla fiducia, prosegue il confronto sulla scuola, dice il governo, questa mattina incontro con gli studenti, nel pomeriggio con le associazioni di genitori, le posizioni restano distanti. Gli avrebbero dato un lassativo e poi l'avrebbero chiuso sul terrazzo, da dove è precipitato, è la nuova ipotesi di indagine sulla morte di un 19enne che era in gita a Milano con la sua classe. È il giorno della Juventus, in campo questa sera contro il Real Madrid per la semifinale di Champions League, la vincente se la vedrà col Barcellona. Si apre oggi il Festival di Cannes tra le speranze italiane di conquistare la Palma d'Oro con uno dei tre italiani in concorso. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e poi il numero di sms durante la diretta è il 349-238-6666. In apertura parliamo di economia perché questa mattina l'Istat ha diffuso i dati sul prodotto interno lordo, lievemente migliori delle attese. L'Italia esce dalla recessione. Nel primo trimestre 2015, dice l'Istat, il PIL è tornato a salire dopo 5 trimestri consecutivi di mancata crescita, con un aumento dello 0,3% rispetto all'ultimo trimestre 2014. Il risultato è il migliore dall'inizio del 2011, quindi da 4 anni, ed è superiore alle attese degli analisti, che vedevano un più 0,2%. L'Italia così non si discosta molto dalla crescita dell'Eurozona, il cui PIL è in crescita dello 0,4% nel primo trimestre di quest'anno, in accelerazione dopo il più 0,3% del quarto trimestre 2014. Cresce dello 0,3% la Germania, dello 0,6% la Francia, dello 0,9% la Spagna. La Grecia continua invece a soffrire. Per il secondo trimestre consecutivo il PIL è stato negativo, meno 0,2%. Per quanto riguarda l'Italia, un dato negativo è invece quello della deflazione. Secondo i dati definitivi di Istat, nel mese di aprile l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,2 su base congiunturale, quindi rispetto al mese precedente, ma è sceso dello 0,1 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è una giornata quella di oggi nella quale dovrebbero arrivare le raccomandazioni europee ai singoli paesi e dunque anche all'Italia. In parte indiscrezioni sono già state diffuse. Facciamo un punto con Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Non è una promozione quella che ci si aspetta da Bruxelles per l'Italia, ma nemmeno una bocciatura. Infatti, secondo le indiscrezioni che sono state raccolte dall'ANSA e stando alle parole del ministro dell'economia Padoan, le raccomandazioni dei commissari europei continueranno a dare fiducia all'Italia, non precludendole la possibilità di ottenere il via libera alla flessibilità sui conti 2016, a patto che attui adeguatamente le riforme concordate, quindi parliamo di fisco, pubblica amministrazione, privatizzazioni e via dicendo, e prenda le misure necessarie per compensare l'impatto della decisione della Consulta sulle pensioni, che dovranno assicurare che l'Italia resti nel braccio preventivo del patto, così dice l'ANSA dopo aver letto una bozza di queste raccomandazioni, che sia rispettato il margine di sicurezza sul deficit, che l'obiettivo di medio termine sia raggiunto in 4 anni. E sempre a proposito della decisione della Consulta sulle pensioni, dice questa raccomandazione che dovrebbero arrivare nel pomeriggio da Bruxelles, un nuovo rapporto sul debito italiano rispetto a quello di febbraio potrebbe essere necessario, ma solo più in là. Il ministro Padoan, dal canto suo, ieri aveva detto di avere rassicurato l'Eurogruppo su una soluzione per il rimborso delle pensioni entro pochi giorni e poi ha ostentato ottimismo sostenendo che le raccomandazioni saranno in linea con quello che l'Italia sta già facendo. È tutto. Grazie Laura Bettini. A proposito della sentenza della Consulta sulle pensioni, arrivano le dichiarazioni in questi minuti dell'avvocato Riccardo Troiano, che è legale di Manager Italia e Federmanager, ossia quello che ha portato la questione di fronte alla Corte Costituzionale e ha ottenuto questo verdetto. Dice un intervento che preveda rimborsi solo ad alcune fasce di pensionati, ossia quelli che si stanno ipotizzando in queste ore, o una graduazione con restituzioni parziali sarebbe illegittimo. Le categorie promotrici dell'azione finita finita la consulta, sono pronte a fare ricorso. Vedremo dunque come andrà a finire. Questa mattina intanto vertice sull'immigrazione, dal quale è emerso finalmente il piano europeo, i nodi e gli snodi. Ne parliamo con Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Eh sì, buongiorno. La Commissione europea ha adottato la nuova agenda per la gestione dell'immigrazione, una svolta per il modo in cui gli Stati membri gestiscono i flussi migratori e soprattutto l'accoglienza dei rifugiati. A dare per primo la notizia con un tweet l'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, che poco fa ha parlato in conferenza stampa. Sentiamo. We are facing an unprecedented situation. La situazione nel Mediterraneo, ha detto, è senza precedenti ed eccezionale, per questo serve una risposta eccezionale, immediata e coordinata, e l'Europa qui ha fatto passi da gigante, ha detto la Mogherini. Quanto alla redistribuzione dei migranti, secondo fonti UE bisogna innanzitutto distinguere tra un'accoglienza su base volontaria dei richiedenti asilo che si trovano ancora nei paesi di origine, qui i migranti coinvolti saranno 20.000, la percentuale per l'Italia è del 9,94%, poi l'altro aspetto, quello che stava più a cuore al nostro paese, la redistribuzione obbligatoria dei migranti che già si trovano in Europa. Il numero complessivo ancora qui non è stato definito, ma la quota per l'Italia è di 11,84, quindi sarebbe già in credito, e i paesi coinvolti sono 25 su 28, perché Irlanda, Regno Unito e Danimarca eserciteranno il diritto di opt-out, cioè non partecipano a meno di non chiederlo espressamente. E poi c'è tutto l'altro capitolo, quello che riguarda il piano di interventi di contrasto al traffico di esseri umani, la missione di sicurezza e di polizia che arriverà sul tavolo dei ministri degli esteri e della difesa lunedì a Bruxelles. In questa missione c'è l'operazione di sequestro e distruzione dei barconi usati dagli scafisti su tre livelli, nelle acque internazionali, nelle acque territoriali libiche, nei porti della Libia, ma secondo il Guardian il piano prevederebbe anche interventi con truppe di terra. Tutto ciò però dovrà essere definito dalla risoluzione dell'ONU che dovrebbe arrivare prima del vertice di capi di Stato e di Governo fissato per fine giugno. A te Simone. E grazie ad Alessandra Schepisi. Due risposte ad ascoltatori. Il primo, che già ci ha scritto ieri via sms chiedendo se il blocco agli stipendi dei dipendenti pubblici fermo da 6 anni è costituzionale, e su questo tema ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse, è arrivato e arriverà presto presso la consulta un ricorso presentato proprio dai sindacati, e naturalmente sarà a quel punto la Corte Costituzionale che vaglierà. L'altro ascoltatore, Gianluca, che ci chiede che cosa succederà di tutti gli immigrati che non sono rifugiati politici. Questo è l'altro tema centrale, perché questo accordo a Bruxelles riguarda proprio appunto solo i richiedenti asilo e non i cosiddetti immigrati economici. Un tema che dunque resta aperto e sul quale torneremo sicuramente nei prossimi giorni. Veniamo al confronto sulla scuola, che prosegue. Dopo la fumata nera nell'incontro di ieri tra governo e sindacati, la tensione sulla riforma della scuola resta alta. Questa mattina Palazzo Chigi fa sapere di non avere intenzione di blindare con la fiducia il disegno di legge all'esame del Parlamento e assicura invece di voler andare avanti con il metodo del confronto costruttivo e del dialogo, come dimostrano anche le consultazioni in programma oggi con le associazioni degli studenti e dei genitori. Le aperture dell'esecutivo non convincono però i sindacati, secondo i quali i nodi da sciogliere restano ancora molti e le modifiche introdotte alla riforma in commissione alla Camera sono insufficienti. Oltre al boicottaggio dei test invalsi, la protesta potrebbe portare anche al blocco degli scrutini di fine anno, un'ipotesi sulla quale frena però la numero uno della CISL, Furlan, ospite stamattina di Mix 24. È una cosa che non mi piace assolutamente, creerebbe dei disagi a famiglie e ragazzi, certo. Quindi io spero proprio che prima di allora, abbiamo tutto il tempo, si trovino le soluzioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo all'estero. È salito a 61 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.3, del quale abbiamo parlato ieri in apertura, che ha colpito il Nepal. Il sisma ha causato danni nei distretti di Sindupalchok e Dolaka, a nord-est di Kathmandu. Diverse abitazioni, scuole, uffici governativi e anche ospedali sono stati danneggiati a causa delle frane e di rotture dell'asfalto. Molte strade sono impraticabili. Si registrano 1.200 feriti. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti. Oh, man. Gli audio che sentite arrivano dall'incidente, dal deragliamento di un treno a Filadelfia. È avvenuto questa notte un convoglio della compagnia Amtrak con 240 persone a bordo che collega Washington e New York. Almeno 5 persone sono morte e una sessantina sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nel deragliamento appunto del treno che si stava avvicinando ad una curva quando almeno 8 vagoni sono usciti dai binari. Domenica scorsa anche un altro treno del Amtrak ha avuto un incidente ed erano rimaste vittime 3 persone. Siamo alla cronaca italiana che inizia dalle indagini sulla vicenda del ragazzo morto durante una gita a Milano. Si fa sempre più larga l'ipotesi della goliardata finita male tra gli investigatori che stanno cercando di ricostruire le cause della morte di Domenico Mauro Antonio, 19 anni, all'ultimo anno di scientifico. I compagni di classe dicono di non aver visto nulla, ma per gli inquirenti, proprio loro potrebbero fornire gli elementi decisivi per risolvere il caso. Alcuni di loro, infatti, secondo gli inquirenti, li avrebbero fatto assumere dosi massicce di un lassativo, chiudendolo poi fuori dalla camera. Il ragazzo avrebbe vagato per il corridoio dove sono state ritrovate tracce di feci sia sul piano che sul davanzale della caduta. A quel punto qualcuno potrebbe essersi accorto che lo scherzo stava andando oltre e potrebbe aver tentato di trattenerlo, da quei lividi che il ragazzo aveva sulle braccia. Ora si cercano residui organici per tracciare dei profili del DNA. L'hotel di Bruzzano, dove la scolaresca si trovava durante la gita per la visita ad Expo, è dotato di videocamere che però in quel punto non erano attive. Gli studenti al momento tacciono, sia con la polizia che con gli insegnanti. Nessuno avrebbe visto o sentito nulla. Michele Nardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca per un incidente sul lavoro, una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Qualiano nel Napoletano ha ucciso 2 operai e feriti gravemente altri 2. L'esplosione è avvenuta alla pirotecnica dei fratelli Schiattarelli e si è sentita fino ad alcuni chilometri di distanza. Secondo i primi rilievi le cause potrebbero essere accidentali, lo conferma Giovanni Cacciapuoti, che è vicecomandante dei vigili urbani di Giugliano, al microfono di Cristina Carpinelli. Siamo intervenuti noi perché alcuni abitanti della zona ci hanno avvisato che avevano sentito un grosso boato e avevano intravisto una nuvola di polvere bianca. Quello che noi avevamo certezza è che c'era un solo morto e 3 persone ferite. Adesso abbiamo avuto pure noi comunicazione che c'è stato un altro morto in via di accertamento che non si conosce ancora l'identità. Era sì, tutto in regola, questo sì. Quindi quale come può essere stata la preciso, causa? Ma vabbè, ma quello poi quando succede questo basta una piccola scintilla, un qualsiasi cosa, che c'erano i vigili del fuoco ancora intenti a fare accertamenti e quindi non sappiamo esattamente. Accordo tra Facebook e alcuni editori britannici, americani e tedeschi. Alcuni servizi appariranno direttamente nella bacheca. Molti degli utenti di Facebook si informano partendo da un link segnalato da amici all'interno del social network. La maggior parte lo fa dallo smartphone. Per migliorare il modo con cui i lettori leggono le notizie, Facebook lancia da oggi Instant Articles, articoli istantanei, per ora solo sull'applicazione per iPhone, in accordo con 9 editori. Ci sono il New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, The Atlantic, The Guardian, BBC News, Spiegel e Bild. Le notizie di questi editori potranno essere pubblicate direttamente sulla piattaforma social e gli utenti potranno accedervi senza lasciare la bacheca. L'accordo dovrebbe garantire tempi di accesso 10 volte superiori agli attuali e contenuti aggiuntivi come video, mappe e grafica, tutto all'interno del social network. In cambio, gli editori potranno ottenere una parte dei ricavi pubblicitari, vendere direttamente la pubblicità contestuale agli articoli e fare analisi su come e quando gli utenti leggono. Nei prossimi mesi Facebook punta a firmare accordi con altri editori, un segno evidente di come l'informazione è cambiata nell'era dei social network e delle app in mobilità. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo a calcio, oggi in campo la Juventus per il ritorno di Champions League a Madrid della semifinale, il nostro inviato nella capitale spagnola. Ma l'equipo lo vedo concentrato, lo vedo con gana, con la illusione di essere una gran semifinale. Lo spagnolo è fluente, il sopracciglio sinistro inarcato come alla vigilia delle sfide che contano. Deve fare un certo effetto alla vecchia signora giocarsi il sogno Champions contro Carlo Ancelotti, l'unico nella storia del Milan a sollevare al cielo due coppe campioni da giocatore e altrettante da allenatore, l'uomo che ha portato la decima coppa nella bacheca dei bianchi di Spagna e che ha saputo vincere anche al timone di Chelsea e Paris Saint-Germain. Solo in un posto Carletto, una volta sedutosi in panca, non vinse nulla, proprio a Torino, proprio alla guida della Juventus. Storia di inizio millennio, con una Champions sfumata proprio in semifinale, uno scudetto naufragato sotto il diluvio di Perugia a favore della Lazio e un altro lasciato alla Roma in rimonta. Su tutto poi sempre tesi rapporti col popolo bianconero, che mai gli ha perdonato il passato da romanista e milanista prima e la vittoria alla guida dei rossoneri nella finale di Manchester nel 2003 poi. Insomma, comunque vada, stasera al Bernabeu sarà di nuovo torrida corrida, per qualcuno col dolce retrogusto della vendetta sportiva. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Madrid. Si apre il Festival di Cannes. Cannes si comincia. L'edizione numero 68 si apre questa sera con il film della regista Emmanuelle Bercot, prima donna ad aprire le danze con La Tête Haute, con Catherine Deneuve. La cerimonia di apertura sarà invece officiata da Lambert Wilson. Seconda apertura con l'attesissima anteprima del film con Tom Hardy e Charlize Theron, Mad Max Fury Road, quarto capitolo in 3D della saga inaugurata da George Miller nel 1979. In concorso tre autori italiani, Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone. Secondo le indiscrezioni della vigilia, il concorrente più temibile sarà The Lobster, del greco Yorgos Lanthimos, un dramma romantico e fantascientifico che porta a un futuro in cui non si può essere single oppure si viene trasformati in animali. Almeno pare l'animale però si potrà scegliere. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo un attimo, poi ci ritroveremo e torneremo a parlare di immigrazione, perché nel piano europeo, come già vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è previsto l'allestimento di campi di smistamento dei profughi sul nostro territorio. Uno dei campi di smistamento sarebbe previsto a Civitavecchia. Ne parleremo con il sindaco, perché c'è anche un tema che riguarda le compensazioni che debbono o che vorrebbero ricevere questi territori. Intanto il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Cresce più delle attese il prodotto interno lordo nel primo trimestre, lievemente più delle attese, un più 0,3%, miglior risultato dal 2011, su base annua la variazione è nulla. C'è attesa per le raccomandazioni di Bruxelles all'Italia in tema di politica economica. Il piano europeo per l'accoglienza dei profughi. Al nostro paese andrebbe una quota dell'11,8% dei richiedenti asilo. Secondo il Guardian, intanto in Libia si starebbe studiando anche un intervento di terra. Il governo interviene sulla scuola. Non abbiamo intenzione di mettere la fiducia, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ma prosegue il confronto. Questa mattina incontro con gli studenti, nel pomeriggio invece l'esecutivo incontrerà le associazioni di genitori. Gli avrebbero dato un lassativo e poi l'avrebbero chiuso sul terrazzo da dove è precipitato. La nuova ipotesi di indagine sulla morte di un 19enne che era in gita a Milano con la sua classe. È il giorno della Juventus, in campo questa sera contro il Real Madrid per la semifinale di Champions League e la vincente se la vedrà col Barcellona. Torniamo all'estero adesso. Ieri sera i democratici, andiamo negli Stati Uniti, i democratici in Senato hanno bloccato il progetto per l'approvazione rapida e una corsia preferenziale in Congresso per l'accordo per la creazione dell'area di libero scambio transpacifica, spinta da Obama, una sorta di schiaffo al presidente americano. Mario Platero. TTIP e TPP sembrano, come dire, degli acronimi molto complicati. In realtà, per coloro che seguono le cronache economiche, sono due negoziati per aprire i commerci internazionali nell'area del Pacifico, il TPP, nell'area dell'Atlantico, il TTIP. Ebbene, ieri c'è stato un voto chiave che avrebbe dovuto dare al presidente Barack Obama quell'autorità negoziale per poter avanti questi negoziati senza che ci fossero intoppi al Congresso. Ebbene, questa autorità gli è stata negata proprio dai democratici. politici. Dunque io qui vedo non soltanto una crisi economica, ma anche una crisi politica in qualche modo, perché Barack Obama non è riuscito a controllare il suo partito. Pensate che soltanto un senatore ha votato a favore di questa mozione per aprire il dibattito al Senato e poi andare al voto e concedere al presidente questa nuova autorità negoziale. La situazione è complessa, ma la partita è talmente importante, perché in una fase storica come la nostra, in cui l'economia internazionale, le economie anche nazionali stanno cambiando, occorre trovare delle nuove valvole di sfogo, occorre combattere la disoccupazione, occorre combattere la debolezza della crescita, occorre combattere la deflazione, e dunque un nuovo sfogo commerciale diventa chiave. Io sono convinto che alla fine alcune delle richieste dei democratici, per esempio protezione dei lavoratori che si troveranno in difficoltà, per esempio un controllo sulla possibile manipolazione delle valute da parte dei paesi che otterranno liberalizzazioni commerciali dagli Stati Uniti, ecco, credo che alla fine qualche cosa si potrà fare e alla fine si andrà avanti. La partita è troppo importante perché sia abbandonata. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. A proposito dei nostri titoli, l'ascoltatore che dice siamo il GR del Partito Democratico perché abbiamo detto che il PIL va meglio delle attese. Guardi, le previsioni degli analisti che abbiamo visto nei giorni scorsi indicavano una crescita tra un più 0,1 e un più 0,2%, e parliamo solamente di questo trimestre. Quindi abbiamo detto che è lievemente superiore alle attese. Quando ci sono dati positivi li diamo, quando ci sono dati negativi li diamo, come sempre avviene. Vi voglio dare invece una notizia che è appena stata diffusa dalle agenzie e riguarda il tema dell'immigrazione ancora una volta, e arriva dalla Turchia. 6 bambini e una donna sono morti congelati nel tentativo di entrare clandestinamente in Turchia attraverso il confine iraniano, è quello che riporta l'agenzia turca Anadolu. Altri 13 migranti sono stati ricoverati e 5 di loro sono in gravissime condizioni. Il gruppo di clandestini, 33 in tutto, sono stati trovati dai militari turchi nei pressi della cittadina di Kaldiran, al confine con l'Iran. Per un'altra agenzia di stampa turca, i migranti sarebbero di nazionalità afghana. E ancora arrivano indicazioni dal commissario all'immigrazione Dimitri Avramopoulos sul piano europeo che viene presentato in questi minuti. Il piano europeo sull'immigrazione si propone entro fine maggio un programma di reinsediamento in Europa per offrire ai rifugiati con evidente bisogno di protezione internazionale in Europa 20.000 posti distribuiti su tutti gli stati membri grazie ad un finanziamento supplementare di 50 milioni di euro per il 2015 ed il 2016. Queste le indicazioni che stanno arrivando in questi minuti dall'Europa. E proprio di immigrazione vogliamo parlare con Antonio Cozzolino, che è sindaco di Civitavecchia del Movimento 5 Stelle. Cozzolino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. E ne parliamo con lei perché Civitavecchia è uno dei posti indicati o ipotizzati, proprio immagino per la dimensione del suo porto e per la possibilità naturalmente di accogliere le navi, per la realizzazione di uno di questi campi di smistamento che sono stati ipotizzati a Bruxelles. Maggiori dettagli li avremo al termine di questa conferenza stampa, quando poi avremo in mano anche i documenti che arrivano dal piano europeo. Uno di questi campi di smistamento nei quali personale internazionale arriverà, identificherà fotograficamente i profughi e i migranti e poi li smisterà nel resto d'Europa. Vorrei capire. Quindi voi sono curioso di vederli anch'io questi documenti, perché a quanto pare l'Europa si sta muovendo. Sì, ci è voluto un po' di tempo, ce l'abbiamo fatta. Senta, come la prendete? L'ipotesi che si possa fare un campo di smistamento da voi, come la prendete? Ma guardi, ieri abbiamo avuto un consiglio comunale aperto proprio su questa questione, perché convocato dalla maggioranza abbiamo voluto sentire un attimo qual era il polso della città. Noi abbiamo avuto un'esperienza pregressa nel 2011 in cui sono stati portati degli migranti, circa 700, e nell'arco di una settimana in una struttura fatiscente che era ex caserma De Carolis. È stata una cosa emergenziale, quindi non le dico che risultati ha avuto, cioè pessimi, condizioni disumane, e la città la cosa l'ha presa veramente male. Adesso la questione è un po' diversa, perché con la prefettura di Roma, col prefetto Gabrielli e col prefetto Pecoraro Prima stiamo cercando di programmare la nascita di un centro di prima accoglienza proprio in quella struttura. Sono già stati stanziati dei fondi e quindi cerchiamo di fare un percorso che porti anche a ad avere qualcosa che sia nettamente diverso da una situazione emergenziale. Quella la città può sobbarcarsela, può accoglierla, situazione emergenziale no. C'è stato tentato, insomma, di coinvolgerci in situazioni emergenziali per due volte, però per due volte le abbiamo rispedite al mittente, perché senza programmazione cose del genere vengono male. Quindi, diciamo, Cozzolino, per capire, non c'è una contrarietà a prescindere, basta che arrivino i fondi e si realizzi quello che si deve realizzare. Basta che ci sia un cronoprogramma di un progetto che abbia senso. Cioè, questa è una città che ha sempre avuto una cultura dell'accoglienza, alla fine è un porto di mare. Però è normale che le cose vanno gestite come si deve. Quindi, di fronte ad una programmazione, io mi sento di dire che la cosa è fattibile. Se fosse stata scelta Civitavecchia per affrontare l'ennesima emergenza, io le dico: qui abbiamo una serie di servitù che non finiscono mai. Niente a che vedere non possiamo paragonare una centrale a carbone o un centro chimico militare con 300 immigrati. Però comunque sarebbe stata percepita come un'altra servitù. Quanti ne potrebbe accogliere la caserma, Cozzolino? La caserma è grande, molto grande, però consideri che è in stato di totale abbandono ormai da 4 anni, è in condizioni pietose e sono stati stanziati appunto i fondi che verranno gestiti dal proprietario dei lavori pubblici per eseguire la riqualificazione di tutto lo stabile, e i progettisti del provveditorato lavoreranno insieme a quelli del comune, il che ci dà garanzia dell'utilizzo che se ne farà della caserma. Poi mi ha detto, appunto, ieri avete avuto questo consiglio comunale aperto, no, nel quale avete invitato anche la cittadinanza, certo, anche per sentire il polso della cittadinanza, certo, come è giusto che sia. Avrete intenzione eventualmente di sottoporre la cosa a una sorta di referendum o no? Vi limiterete a un ascolto della città? Io no, non penso che sarà seguita questa strada, anche perché comunque... No, non lo chiederei, sì, ad un altro sindaco, ma vista la sua collocazione politica glielo chiedo per ovvi motivi. No, certo, però qui non è una questione di collocazione politica, qui è questione che a me a ottobre dell'anno scorso mi è stato comunicato dalla prefettura, che come sapete ha poteri superiori a quelli di un'amministrazione locale, che la caserma De Carolis era stata requisita dal demanio militare e scelta per la creazione di un centro di prima accoglienza. Cioè, sostanzialmente mi è stato detto: sindaco, lo facciamo. Okay. Lo dobbiamo fare. Allora, io avevo due ipotesi, due alternative davanti a me. Uno, mettermi a fare la guerra alla prefettura, e avrei potuto, perché mi mettevo la fascia, prendevo il bastone, mi facevo arrivare un migliaio di cittadini, ci mettevamo davanti a De Carolis e finiva la storia. Sì. Oppure, invece di fare la guerra alla prefettura, cercare di risolvere il problema con un atteggiamento più collaborativo. E lei dice, ho scelto la seconda opzione. Ho scelto la seconda opzione perché secondo me fa parte anche di un processo di crescita socioculturale che serve a questa città. La ringrazio, grazie ad Antonio Cozzolino, sindaco grazie di Civitavecchia, buona giornata. Buona giornata a tutti. Gianandrea Gagliani, direttore di analisi di difesa, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, sì, bene, anche tu spero. Tutto bene. Allora Andrea, con te vogliamo parlare anche con te di immigrazione, però siamo andati, come dire, un po' lunghi, per così dire, con il sindaco di Civitavecchia, quindi ti chiederei di aspettare 5 minuti, se puoi ritorniamo a parlare con te, perché c'è questa indiscrezione del Guardian che dice l'Europa sarebbe pronta nell'ambito evidentemente di un mandato ONU nella lotta contro l'immigrazione clandestina e i trafficanti di uomini a inviare anche truppe di terra. Voglio capire da te quanto secondo te è fattibile tutto questo. Intanto ci fermiamo e andiamo all'appuntamento di borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Cresce lievemente più delle attese il prodotto interno lordo nel primo trimestre, più 0,3%. Piano europeo per l'accoglienza dei profughi all'Italia, una quota del 9% circa, non dell'11,8% come abbiamo detto inizialmente. No alla fiducia, prosegue il confronto sulla scuola, dice il governo. Il giorno della Juventus in campo questa sera contro il Real Madrid per la semifinale di Champions. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E nel frattempo Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera dell'Europa, dice chiaramente a una domanda arrivata in conferenza stampa: non stiamo programmando alcuna operazione di terra in Libia, stiamo programmando un'operazione navale contro i trafficanti di esseri umani. Gianandrea Gagliani, di Analisi Difesa. Gianandrea, di nuovo bentornato, scusa per l'attesa. Prego. Abbiamo sentito quello che dice Federica Mogherini. Vorrei capire da te se in questa operazione contro i trafficanti ti sembra possibile che non ci sia un intervento di terra, seppur minimo, seppur magari non dichiarato, con uomini dell'intelligence. Ma infatti il gioco delle parole va un po' chiarito, nel senso che il Guardian, come altri giornali, hanno messo le mani sul documento, 19 pagine di un documento della Bozza, del piano europeo per contrastare i trafficanti, e che include anche incursioni a terra. Io credo sia meglio parlare in questi termini, cioè l'operazione sarà prettamente navale, perché sarà a ridosso delle coste libiche, e come ha spiegato ieri l'ammiraglio De Giorgi, il comandante, il capo di stato maggiore della nostra marina, prevede anche da andare a fermare i barconi che da diversi paesi nordafricani vengono acquistati e poi vengono forniti appunto ai trafficanti. Ovviamente un'operazione del genere presuppone un controllo del territorio, che si farà con l'intelligence, che può essere anche, sicuramente sarà espresso anche perché Gianandrea, i libici il controllo del loro territorio non ce l'hanno. E quindi il governo no, ma i trafficanti esatto. Sì. Dico qualcuno che lo controlli ci vuole, evidentemente. Sì, no? Noi avremo sicuramente dei velivoli, degli aeroplani o dei droni senza pilota che sorveglieranno le coste, terranno d'occhio i movimenti dei trafficanti, dei gruppi di migranti, e anche, si presume, dei barconi dove vengono nascosti, dove vengono occultati. E poi avremo probabilmente nelle varie forme di intervento per distruggere questi barconi a terra, sempre che ci sia un'autorizzazione a intervenire in Libia. E come ha detto De Giorgi ieri, o la dà l'ONU o la dà un governo libico, non si sa bene quale dei due, visto che ce ne sono almeno due che si fanno la guerra fra di loro. Allora in questo caso la distruzione dei barconi sulle spiagge potrebbe essere affidata anche a operazioni lampo condotte da forze speciali, da fanti di marina, penso al reggimento San Marco della nostra marina, che compiono un'incursione, distruggono i barconi e poi vengono reimbarcati sulle navi con mezzi anfibi oppure con elicotteri. Ovviamente operazioni a terra con truppe a terra comportano anche dei rischi di perdite, perché appunto i trafficanti dispongono non solo di criminali ma anche di milizie ben armate che conoscono bene il territorio e certo non staranno a guardare mentre gli europei provano a distruggere i loro preziosi barconi. Gianandrea, due domande sulle dimensioni e sui tempi, perché la costa libica è lunga e quindi un'operazione di presidio di una cosa di quelle dimensioni è impegnativa da un punto di vista militare e quindi economico. E dall'altra parte i tempi, secondo te in quanto tempo si può attrezzare una missione di questo genere? Allora, i tempi potrebbero essere anche di poche ore, perché le navi per svolgere questa operazione ci sono già. L'operazione Mare Sicuro della nostra marina, che è in campo da un paio di mesi almeno, prevede già la presenza di 6 navi da guerra, tra queste una nave da operazione anfibia che ha un ponte molto grande sul quale appontano appunto gli elicotteri, la San Giorgio, San Giusto, sono 3 navi di quella classe lì, e che al suo interno ha un bacino allagabile dal quale possono operare mezzi da sbarco, mezzi anfibi. Le navi ci sono già, l'estensione delle coste libiche è veramente spaventosa, ma in realtà i barconi diretti verso l'Italia partono tutti dalle coste, o quasi tutti, dalle coste a ovest di Tripoli, quindi nella zona fra Zuara, Zavia, Sabrata, una zona abbastanza ristretta e limitata. E se si ponessero delle navi da guerra a stretto contatto con queste coste in quella zona, sarebbe possibile individuare i barconi nel momento in cui salpano, addirittura, non certo quando sono in alto mare, e questo porterebbe anche al vantaggio non indifferente di evitare naufragi e quindi di poter soccorrere e raccogliere gli immigrati nel momento in cui sono appena salpati, e quindi di distruggere anche i barconi sui quali sono imbarcati una volta soccorsi. Grazie a Gianandrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa, per essere stato con noi ancora una volta e averci dato questi chiarimenti. Traffico.